Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il computer di bordo dice 50 minuti all'atterraggio. Beirut è sempre più vicina. Fuori dall'oblò, i 9.000 metri di quota regalano ancora un po' di rosso tramonto. La tastiera retroilluminata del computer mi basta per iniziare a raccogliere le idee da usare nei miei post. Nella mia mente, il mio media tour in Libano inizia ora. Mi chiamo Giampiero Riva, vivo Pordenone, ho 38 anni, sono sposato, ho 3 bimbi e sono ingegnere elettronico. Delle volte capita di ricevere delle storie che raccontano una storia che non sai nemmeno che esista. Ho usato esattamente 2 volte il termine storia perché il lavoro che di fatto fa Giampiero è testimoniare, raccogliere, documentare comunque delle storie, in questo caso legate a un'esperienza in Libano con l'esercito italiano, ma quelle storie le raccoglie in un modo di cui io, diciamo, disconoscevo l'esistenza, o meglio, non conoscevo l'esistenza di questa figura professionale, che è quella che lui definisce come tale, e cioè l'iPhonografo. Sono le 16:09, buongiorno a tutti, Radio 24, voi siete qui, io sono Matteo Caccia e oggi raccontiamo la storia di Giampiero. Credo, poi ce lo facciamo spiegare meglio da lui, che in sostanza è quello che lui racconta, un media tour, è un tour fatto da una persona che è un giornalista, un reportage fatta da un giornalista oppure no, lo capiremo quando ce lo racconterà Giampiero, il tutto però documentato tramite uno smartphone, da cui la definizione. Qualche giorno fa leggevo un articolo che, parlando, insomma, sapete che riguardo alla tecnologia ci si divide sempre in apocalittici e integrati, per cui quello, credo, quell'articolo appartenesse, credo, alla categoria degli apocalittici. Raccontava di come, a causa degli smartphone che hanno videocamera, fotocamera, social network integrati, per cui scatti foto, spedisci, mandi video, li giri, li monti addirittura e li carichi dove vuoi, noi siamo diventati più testimoni che protagonisti delle cose che viviamo. È un po' una lettura da apocalittici, però un po' è vero anche che appena c'hai aspetta che accendo per riprenderlo. Ieri ho visto su Facebook la foto di un tizio che diceva la foto di un tramonto che è quasi finito praticamente, quindi si vede giusto il rosa e sotto lui scriveva: peccato sia riuscito a filare la scheda solo 30 secondi dopo, il rosa era già passato. 349-238-6666, se vi è capitato di essere testimoni di qualsiasi cosa e di documentarlo però con una fotografia, con un video, con queste due cose sostanzialmente, e l'avete raccontato a qualcun altro, l'avete postato o inviato, 349-238-6666. Era più difficile quando non esistevano gli smartphone documentare le cose, e c'è un messaggio splendido di Francesco sul profilo Facebook del programma Voi Siete Qui Radio 24, che racconta come nell'estate dell'87 fosse in mare a San Vitolo Capo, Sicilia Occidentale, con la sua famiglia su questa barca che si chiama Mara, che adesso dice esiste ancora. È molto lungo il messaggio, quindi magari lo ripostiamo su Facebook, però in sostanza loro sono lì a una videocamera e a un certo punto nel silenzio sente un e vede una balena. Riesce a riprendere questa balena e dice: oggi conserviamo quel VHS con estrema gelosia e con tanto affetto. 349-238-6666. Qualsiasi cosa abbiate testimoniato, ce lo raccontate. Dopo sentiamo uno che fa di fatto di mestiere il testimone, che è Piff, ma lo sentiamo dopo la borsa. Adesso invece è la storia di Giampiero. Il computer di bordo dice 50 minuti all'atterraggio. Beirut è sempre più vicina. Fuori dall'oblò, i 9.000 metri di quota regalano ancora un po' di rosso tramonto. Non accendo la luce di servizio per non rovinare l'atmosfera. La tastiera retroilluminata del computer mi basta per iniziare a raccogliere le idee da usare nei miei post. Nella mia mente, il mio media tour in Libano inizia ora. Un altoparlante gracchia e il capitano improvvisamente prende la parola. Signori, una comunicazione di servizio. Ho il piacere di annunciarvi che l'Italia sta vincendo sulla Germania per 2-0. Scatto in piedi, rischiando di far cadere il computer dal tavolino richiudibile. Urlo liberatorio sovrastato da almeno altri 100. Il doppio invece è il numero delle braccia festanti, quasi tutte, le mie e poche altre fanno eccezione, vestite di mimetica. Non sono un grande appassionato di calcio. Al di là degli eventi che coinvolgono la nazionale è già tanto se mi informo sulle sorti dell'Udinese. Sono finito su questo volo grazie a un esperimento. L'esercito mi ha voluto come primo blogger e instagrammers italiano nel sud del Libano. Con me c'erano due giornalisti, un'operatrice di camera e un fotoreporter. Ogni anno di numero pari, quindi, che si tratti di mondiale o di europeo, si risveglia in me la sindrome del tifoso e seguo la partita della nazionale con grande partecipazione. C'è ovviamente da registrare il fatto che la nostra nazionale, anche quando ha vinto nelle massime competizioni, non risparmia pateni d'animo a chi segue le partite. E così sta avvenendo anche in questo Euro 2012, durante il quale l'Italia si è giocata ai rigori il quarto di finale con l'Inghilterra. L'Italia vince la partita, ma alla immaginabile mia euforia sostituisco immediatamente lo sconforto, realizzando che la semifinale con la Germania l'avrei persa, dato che sarei stato in viaggio verso il Libano. Sapevamo tutti di essere isolati sull'Airbus 320 diretto a Beirut. Decollo del charter alle 20:30 ore italiane, previste 2 ore di volo. Non ci sono alternative. Se andava bene avremmo saputo il risultato della partita una volta arrivati a destinazione. In viaggio con me ci sono il colonnello Grasso, Giulia Salmaso, giornalista di Telechiara, e Francesco Bruni, giornalista e fotografo. E ci sono soprattutto i ragazzi della 132esima brigata corazzata Ariete, di rientro in Libano da permessi di licenza o in trasferimento per la prima volta. Il fatto di trovarti in mezzo a più di un centinaio di divise ti fa subito sentire un diverso. E non potrebbe essere altrimenti. Eravamo tutti assieme perché abbiamo partecipato al corso per operatori dei media embedded. Io ero assieme a dei fotoreporter e a dei giornalisti cosiddetti classici, però io ho seguito un altro percorso, quello del Libano Media Tour, cioè raccontare il Libano tramite i social network. Sei sotto osservazione e la curiosità di chi ti guarda è palpabile. Il fatto poi che mi sia stato assegnato un posto a sedere lontano dai miei compagni di viaggio ha inibito la mia consueta indole estroversa. Decido quindi di immergermi nei miei pensieri. L'annuncio del capitano sul doppio vantaggio dell'Italia però fa crollare ogni barriera e inizio a disquisire di tattiche e formazione con i ragazzi seduti dietro di me, come uno dei milioni di commissari tecnici italiani. Ci domandiamo chi possa aver segnato e lo chiediamo a un assistente di volo che va a informarsi dal capitano. Lei va e se ne torna con notizie vaghe perché il comandante dice ha saputo il tutto da una radio che trasmetteva in greco. In un attimo scopro negli occhi di uno dei miei nuovi amici la mia stessa sensazione di panico. E se il comandante avesse capito male e il punteggio fosse 2-0 per la Germania? Viviamo la restante parte del viaggio con il fiato e l'euforia sospesi, fino all'atterraggio, all'accensione dei telefonini. Una sinfonia di SMS, 2-1 per l'Italia, siamo in finale. Il calcio unisce e dà gioia più di quanto divida e dia dispiaceri. Sono in buona compagnia nel dirlo e la storia di Giampiero me lo conferma per l'ennesima volta. Ma la sua storia parla di altro. Parla di quello che lui definisce un media tour in Libano. Io non sono un giornalista, ma mi piacciono comunque le storie, quindi capisco molto bene chi va in giro per il mondo a cercare di carpire che cosa faccia la gente e a chiedere cosa succede. E ammiro quelli che lo fanno di mestiere, tipo i fotoreporter o gli scrittori di viaggio, i biografi, quelli che fanno documentari. Raccontare storie di altri è difficile perché puoi descrivere solo i fatti, ma non le emozioni, o ci puoi provare almeno. Invece se racconti qualcosa di te, ne sai sempre molto di più, ovviamente. E la cosa migliore che c'è per descrivere i fatti sono le immagini. Non ho mai avuto una passione trascendentale per la fotografia. Cioè, non ho mai fatto corsi e non so neanche cosa sia un otturatore, per farvi capire, ma da quando ci sono gli smartphone, tutti quanti, ormai, sembriamo un po' Henri Cartier-Bresson. Cioè, non devi sapere niente, devi solo riuscire a guardare lo schermo e schiacciare un pulsante. Lo puoi fare per 1000 volte. E sfido chiunque a non tirare fuori almeno un'immagine bella su 1000 scatti. Anche inconsapevolmente, è impossibile non farcela. Anche solo se metti lo smartphone sul tavolino di un bar davanti alla porta e imposti in automatico uno scatto ogni 10 secondi, ti verrà fuori un ottimo reportage. E non sto dicendo che fare il fotografo sia facile, anzi, dovessi fare una foto decente non saprei nemmeno da che parte cominciare, mentre un fotografo probabilmente te la fa in un attimo e te la fa esattamente come gliela chiedi o come vuole lui. Dico però che anche un incapace come me, se prova 1000 volte con una macchina digitale o uno smartphone, appunto, una foto bella la riesce a tirare fuori, senza nemmeno sapere come ha fatto. Non è come tirare una punizione da 35 metri, che puoi provare magari anche 1 milione di volte, ma alla porta ci arrivi appena appena. Ti basta pigiare un pulsante. E siccome tra gli amici sono stato il primo a usare le immagini seppiate, quelle un po' colorate, sfocate, i miei amici subito hanno creduto che io fossi bravo. Tanto che Christian, quando si è sposato, mi ha detto che per risparmiare lui voleva chiedermi se potevo fargli da fotografo ufficiale del rinfresco. Cioè, in chiesa ci voleva il professionista, ovviamente, perché non si sa mai. Però per il dopo, a lui piaceva che me ne occupassi io con lo smartphone. E io, che sono uno scemo, ovviamente ho detto di sì, che volentieri l'avrei fatto. Il problema però è che qualche sera prima avevo rivisto Match Point per la terza volta e quindi la mia mente era pronta solo a cercare scatti di roba tipo sotterfugi o baci rubati o parole di nascosto. E non credo fosse proprio lo spirito giusto per quell'occasione. Quindi la cerimonia andò benissimo e poi mi misi in azione io. Presi il telefono e lo puntai su tutti gli invitati come fosse in un film di Wim Wenders. Scattai quasi 2000 volte e quella stessa sera scelsi 30 immagini migliori. Ed erano foto tipo il padre dello sposo che bacia sulla bocca una signora che non è sua moglie, oppure il fratello della sposa che ci prova con la mamma dello sposo, oppure il prete che a cerimonia finita si scolava il vino rimasto nel calice e poi se ne versava ancora. Christian guardò le foto dopo essere tornato dal viaggio di nozze e mi disse che erano belle e mi ringraziò molto, però da quel giorno non l'ho più sentito e non mi risponde neanche alle mail. Anzi, Christian, se mi ascolti, tutto bene? Uno tra mio nonno e mio papà, leggo ancora il messaggio di Francesco, quello della balena, ebbe la lucidità di prendere la videocamera, accenderla e puntarla nella giusta direzione, appena in tempo per la ricomparsa di quella meravigliosa creatura, tanto più grande di noi, ma dal respiro tanto simile al nostro. 349-238-6666, se vi è capitato di essere testimoni, ma per essere testimoni intendo di poterlo poi testimoniare in una maniera pratica, attraverso una foto o un video, di qualche avvenimento, qualunque sia, importante o no, privato o pubblico, traumatico o divertente, 349-238-6666. Non ho ancora capito se lo fa per lavoro, però in qualche modo Giampiero lo ha fatto. Pronto Giampiero? Ciao, pronto, ciao. Come stai? Bene, grazie. E anzi, prima di tutto ti ringrazio per essere stato molto fedele al mio testo, perché in altre occasioni dicevi che un po' li rielabori, però devo dire che... Ma guarda, di solito solo quando sono molto lunghi e li devo tagliare. Tu era proprio giusto, giusto, preciso, e quindi siamo riusciti a incastrarlo perfettamente nella puntata. Senti, facciamo un passo indietro, Giampiero. Fai come se io fossi tua mamma e mi spieghi, adesso mi spieghi che cosa vai a fare in Libano. Vabbè, diciamo che tu hai parlato di professionista. No? In realtà quell'avventura nasce da una mia passione fondamentalmente, che è quella di scattare le foto con lo smartphone e di condividerle su Instagram. Anzi, okay. La passione di scattare le foto con lo smartphone nasce proprio dal fatto che mi sono appassionato ad Instagram. Vabbè, quello diciamo è stato un problema di molti. Quando hanno scoperto i filtri tutti quanti sono impazziti e alla fine la foto non contava nemmeno quasi più, no? Era più che altro la forma che gli davi. Però in sostanza, cioè, tu come documentavi la presenza militare italiana in Libano? Come ci sei arrivato? Eh beh, proprio per questo motivo. Diciamo che su Instagram, per un motivo o per l'altro, vuoi per fortuna, vuoi per quello che è, ho, diciamo, raggiunto una certa audience, quindi decine di migliaia di follower. Cioè, quanti follower hai? Adesso sono 82.000, per intendersi. Wow. E quindi l'esercito italiano, che voleva fare un esperimento, voleva realizzare qualcosa di nuovo dal punto di vista della comunicazione, che non sì. fosse il solito TG delle 20:30, ok, sì. dove in due minuti si cerca di raccontare magari il fatto di cronaca, mi ha ingaggiato per partire in Libano assieme a dei giornalisti, a dei fotoreporter che sono abituati a fare questo tipo di spedizioni, che okay. si chiamano appunto embedded, cioè l'operatore dei media viene integrato all'interno dell'esercito e segue l'esercito in una serie di operazioni e di fatto lavora per l'esercito. No, sì, diciamo che lavora per se stesso a carta bianca, non viene assolutamente, non esiste totalmente la censura, sì, non esiste la censura, può fare, però è difeso dall'esercito, perché comunque sono delle zone che sono calde, per cui okay. l'esercito lo integra. Come lo dire, difende. Ti integra e ci pensiamo esatto. noi a te e tu scatti esatto. delle foto per noi. Più o meno. C'è chi lavora per l'esercito, ma è un militare che fa il fotoreporter, quello è un altro discorso, no? I giornalisti embedded hanno carta bianca, sono liberi e possono, diciamo, dire e fare quello che vogliono, ovviamente. Però scusami, cioè, se io sono un giornalista e sono embedded all'interno dell'esercito, quindi loro mi parano, mi difendono, no? Sì. E io scatto delle foto, io non devo fargli vedere le cose che ho scattato, loro non c'è, come dire, un vaglio, un modo per dire, ma magari questo non lo facciamo vedere. No, allora, no, assolutamente. Diciamo che ufficialmente no, se il giornalista forza la mano e vuole pubblicare, lo può diciamo, pubblicare. Chiaramente sta nella sensibilità del giornalista chiedere se quello che ha fotografato, magari dall'interno della base, perché ovviamente questo è un giornalista che si trova a vivere la base militare, okay. se ha fotografato quello che è all'interno della base, può mettere in pericolo mezzi e persone. Ok, insomma, per questione di sicurezza, diciamo, sicurezza è l'unica e basta, opportunità. Identica, esattamente, ma è libero, come ero libero io che non sono un giornalista. E tu quanto sei stato giù in Libano? Giù in Libano, come se fosse capito. Sono sentati giù in vacanza. Sì, è il sud del Libano, quindi sì. Una settimana. Una settimana. Settimana. E che tipo di foto hai? So che insomma è complicato. Mi dici un paio di foto che hai scattato che sono. Che so, facciamo quelle più a cui che hanno ricevuto più mi piace, visto che. Ecco, guarda, quelle che hanno ricevuto più mi piace sono sicuramente quelle dei tramonti o quelle più suggestive. Ma diciamo che. Le solite, cioè, se le scattavi in Sardegna era uguale praticamente. Diciamo. Però no, in realtà il mio esperimento era proprio questo, cioè io che poi ho anche raggiunto una certa esperienza nell'editing con lo smartphone, tant'è sì. che ho appena finito di scrivere un libro per Apogeo su questa cosa qua, e mi faccio pubblicità. Ti spari la pubblicità, dici anche il titolo a sto punto, tanto siamo qui. Fotografia smartphone. Ok. Cosa avviene? Avviene che ho voluto proprio sperimentare se la fotografia è editata in un certo modo che attirava l'attenzione sì. a chi è abituato a scorrere decine e decine di fotografie su Instagram e a lasciare un mi piace così proprio perché a magari caso, okay. se riuscivo a catalizzare l'attenzione al punto da portarlo a leggere quello che scrivevo sotto e sotto ci scrivevo la storia. E questa quindi, cosa è successa? Cioè, ma poi, cosa poi è successa. Hai capito? E come lo capisci se è successa? Beh, perché vedo i commenti. Ah, vedo ok, i commenti, dai commenti. Vedo che per esempio quando sono riuscito a fotografare una donna libanese che camminava su un campo minato e si dirigeva verso di me, poi se hai modo, voglio dire, anche di cercare su Instagram, sul mio profilo, sì. la vedrai, c'è questa ragazza con il legno in mano, sarà stata a 2 metri di distanza da me, lei era sulla zona minata e io ero invece sulla zona sicura, e mi ha fatto anche un certo che vedere, perché se è stata a parlare a lei, io ero lì. Lo immagino. È quello, come dire, hai raccontato questa storia e hai ricevuto dei commenti particolari. Certo, è stato anche interessante vedere, essendo che io ero in una zona, diciamo, del Libano di confine tra Libano e Israele, vedere come anche i miei follower israeliani prendevano in un certo posizione. Modo la questione e altri, quindi senza entrare poi in dettagli politici. Immagino. Gianpiero, guarda, io dopo me lo vado a vedere, magari lo condividiamo sul nostro Facebook, visto che parliamo di social network, così tutti quanti hanno l'idea di quello che fai e si godono le tue foto. L'ultima domanda che ti faccio è però che cosa fai di mestiere? Ah beh, io faccio diciamo che appunto se nel tempo libero scrivo i libri, sono ingegnere elettronico e ho un'azienda di informatica, quindi mi occupo di informatica. Grazie mille Giampiero, in bocca al lupo per tutto. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie. Voi siete qui. È un autoscatto ovviamente quello che si è fatto Giampiero, e chi meglio di lui non avrebbe potuto fare altrimenti, lo immagino fatto quindi col suo smartphone e con una bella filtro Instagram. Sono andato anche a fare un giro sul suo profilo Instagram e ho visto pronti via una foto di Radio DJ, quindi direi che chiudiamo qui il discorso con Giampiero. Testimone, sostantivo maschile e femminile, persona che può far fede di un fatto per averne diretta conoscenza. persona chiamata ad assistere a scopo di fornire eventuale prova in futuro alla stesura di un atto notarile, alla firma di un contratto, eccetera, che essa stessa sottoscrive insieme alle parti e al pubblico ufficiale. Nell'atletica leggera, il cilindretto che ciascuno dei partecipanti a una staffetta deve passare al compagno che inizia la frazione successiva. In filologia, manoscritto o stampa che riporta un'opera di cui si è perduto l'originale. Etimo, da testimonio, testimoni, data secolo XVI. Risale al XVI secolo il termine testimone, come diceva Alessandra De Luca nella spiegazione del termine. Risale però, credo, a 4-5 anni fa, un programma televisivo che porta esattamente questo nome, che ha questo titolo, in cui c'è un uomo che va in giro molto semplicemente con una telecamerina e racconta delle cose. Quell'uomo si chiama Pif. Pronto Pif, buongiorno. Ecco, no, mi piaceva questa presentazione storica. Ma semplicemente perché avevo appena sentito la definizione della parola testimone, che non avevo mai sentito in vita mia, solo per quello. Ho fatto un collegamento banalissimo. Come stai, Pif? Bene, bene. Sei a Milano o sei in Sicilia? No, sto a Roma e sto montando le ultime tre puntate del, appunto, Il Testimone. Perché a che punto siamo arrivati? Scusami, la quinta stagione è stata in onda, giusto? E la quinta stagione in realtà ho cominciato 6 anni fa, perché un anno l'ho saltato perché ho girato un film. Ah, giusto, com'è andato il film? Ma è bene, nel senso che ancora non è uscito, ma tutti ne parlano bene, che sto pensando di fare direttamente il secondo. Ok. Senti, uscirà dopo l'estate, in autunno. Il testimone, per chi non l'avesse mai visto, l'ho spiegato abbastanza male. In sostanza ci sei tu che vai in giro con una telecamerina in mano, inquadri te, inquadri l'interlocutore, gli fai delle domande e poi usi, diciamo, una voice over, si chiama tecnicamente, una voce che racconta e mette insieme i pezzi. Com'è nato questo titolo, banalmente? Ma in realtà quando io ho presentato a MTV l'idea era piaciuta molto, poi quando si doveva decidere, cioè la persona che doveva presentarlo ai vertici di MTV mi ha detto: ma come lo chiamiamo? Io ero in bagno a Mediaset, per farvi capire la situazione. Ok. Non sapevo cosa dire, e mi è venuto spontaneo a dire Il Testimone, perché in realtà è quello che faccio. Perfetto, bellissimo. E c'è stato grande entusiasmo dall'altra parte. Non lo so se che reazione hanno avuto, però se l'hanno lasciato, evidentemente è piaciuto. In qualche modo. Come scegli le storie da raccontare, Pif? Ma in realtà è curiosità, nel senso che mi faccio delle domande e ho la fortuna di levarmi, di andare lì sul posto per levarmi queste curiosità. Infatti, secondo me le puntate meno riuscite sono quelle dove dopo poco mi era passata la passione, perché la curiosità. Era scemata. A cosa stai lavorando adesso? Qual è la puntata che stai montando? Guarda, mi mancano le ultime tre, che sono Valeria Marini. Ma scusami, questo è il filone, come si chiama, testimone VIP, quello che stai con un personaggio, ok, che è un'altra parte. Sì. Il programma nasce in un altro modo, nasce che tu vai a testimoniare delle situazioni o delle persone comuni, più o meno, giusto? Sì. Però poi un anno abbiamo fatto l'ultima edizione. Abbiamo fatto con dei VIP, diciamo, e ora quest'anno abbiamo fatto un incrocio. Sì. Infatti, la prossima, dopo Valeria Marini, c'è una puntata sul carnevale di Ivrea. Sì. Un carnevale, quello dove tirano le arance. Sì, si ritirano, ma li vedi con che la gente cammina con l'occhio nero, che cammina come se avesse una medaglia, perché più l'occhio è gonfio e più ti guardano con ammirazione. Okay. E poi l'ultima puntata, che in realtà era imprevista ma è arrivata in corsa, che con Saviano, con Roberto Saviano, e l'ho seguito mentre andava a Napoli, presentava il suo libro, era da tempo che non parlava in pubblico, anzi l'ultima volta era senza scorta quando parlò in pubblico. E sei riuscito a stare con lui in mezzo alla scorta, cioè com'è andata? Sì, l'ho incontrato una volta dove ci siamo conosciuti a Roma, poi l'ho seguito da Roma a Napoli dentro la sua macchina, quindi con la scorta, e siamo arrivati fino a Napoli e l'ho seguito fino alla libreria, alla Feltrinelli di Napoli, dove ha presentato il libro. Però la cosa emozionante era anche il fatto che era fuori la libreria, era di fronte alla libreria, quindi era in piazza. Questa cosa aveva un simbolo, era molto aveva un valore molto simbolico. Immagino. E lui era molto teso e ho avuto la fortuna di testimoniare questo fatto. Pif, quando uno guarda il tuo programma vede sostanzialmente la tua faccia ripresa da molto vicino, perché giri la telecamera ogni tanto per inquadrarti, anche solo per le facce che fai, e poi quello che riprendi. Ma tu, da dentro, in che posizione ti metti? Cioè, cerchi di essere come uno che sta vivendo una cosa e la riprende con una telecamerina a lato, oppure ti senti un testimone? Guarda, all'inizio, la prima puntata, le puntate MTV, mi protestava con me perché c'ero poco, perché in realtà l'idea iniziale del programma, ma mi hai fatto venire in mente ora tu, era di esserci il meno possibile. Okay. Ti ricordi c'era un programma su Rai 3, andava di notte, si chiama Eveline, una cosa del genere, dove mandavano in onda il girato dei filmati che si giravano nelle zone di guerra. No, non ricordo. No. Io avevo vagamente avevo quella immagine là, cioè volevo esserci il meno possibile. Poi col tempo... Hai cominciato a girare la telecamera verso di te. Esatto, dai, l'ego. Cioè, no, anche perché certe volte devi far succedere delle cose, insomma, certe volte non riesci a essere testimone. No, però, ma infatti, diciamo, la cosa è che spesso la tua faccia racconta molto di più di qualsiasi cosa tu possa dire quando ti inquadri. Pif, ti lascio a Valeria Marini, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, ciao. È una fortuna, grazie. Buona giornata, ciao, grazie, ciao. 349-238-6666, ma tanto con me avete finito, vi lascio, vi mando a Roma. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Paolino Corleoni, finalmente indietro, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Giampiero, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Elisa e vivo a Viareggio. La storia di domani è la mia e parla di un bidone da spedizione che mi sarebbe servito per salire una montagna durante un viaggio. Un viaggio che in parte si è rivelato anche un gran bidone. Questa è la mia storia e io sono qui.